America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Continuano le polemiche tra Donald Trump e un piccolo drappello di senatori repubblicani, ma senatori importanti. Beh, la vicenda la conoscete. Donald Trump ribatte dicendo che è lui che ha isolato questi senatori repubblicani, che sono de paria nel contesto del partito e non si ripresenteranno alle elezioni semplicemente perché non hanno avuto il suo appoggio. Ma di questo ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, non ci sono delle vere notizie, dunque vorrei passare invece a un'altra notizia, perché in questi giorni abbiamo avuto di passaggio negli Stati Uniti, a New York, ma anche a Washington, il rabbino capo di Roma, Riccardo Disegni. Ecco, perché è venuto? Per presentare un progetto che, beh, ha dello straordinario, perché è la traduzione in italiano del Talmud. Il Talmud è uno studio approfondito, di grande riflessione della Bibbia, di alcune delle parti della Bibbia, ma io qua mi fermo perché ho con me ai microfoni di America 24 il rabbino Riccardo Disegni, e dunque, prima di correggermi e di darmi la bacchettata sulle dita perché ho detto qualcosa di sbagliato, cedo a lui il microfono. Cos'è il Talmud? Allora, il Talmud è un'opera monumentale che raccoglie la produzione culturale e religiosa dell'ebraismo di circa un millennio, e quindi è il pilastro fondamentale della cultura ebraica. Ecco, ma è costruito sulla Bibbia, sulla Torah, sui libri che formano la Bibbia? Nella tradizione ebraica c'è una Torah scritta, cioè che corrisponde alla Bibbia, o la prima parte della Bibbia, c'è una Torah orale, che è tutto ciò che la tradizione ha costruito intorno alla Bibbia scritta, e quindi sono tutti i commenti, soprattutto normativi, che danno le istruzioni su come comportarsi in base agli insegnamenti scritti della Bibbia. Cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori qual è un insegnamento che si può derivare di facile diffusione dal Talmud. Ci sarebbero centinaia, se non migliaia, di esempi, ma per esempio il Talmud si apre con una discussione sugli orari della preghiera. Ogni mondo religioso ha le sue preghiere e anche definisce in qualche modo il momento giusto per pregare, perché c'è la preghiera del singolo che può essere fatta in qualsiasi momento, ma c'è anche la preghiera della collettività che va in qualche modo inquadrata. Quindi il primo problema che si pone dentro al mondo è a che ora si comincia a pregare, e tutto questo lo si fa mettendo a confronto situazioni rituali, ma anche abitudini umane, quando la gente rientra a casa dopo il lavoro, quando i poveri che non hanno la cena si mettono a letto e così via. Cioè, da questa domanda esce proprio uno spaccato di realtà umana complessa che viene tutta quanta messa in discussione, e questo è un problema piccolo, minimo, rispetto alla quantità di tutti gli altri problemi che sono presenti in questa opera. La traduzione ha richiesto anche un investimento in tecnologia, se non sbaglio. Allora, prima di tutto, questo testo è difficile, quindi necessita di strumenti per potercisi avvicinare, anche con tutta una tecnologia che viene dal CNR, quindi l'Istituto di Linguistica Computazionale ha elaborato uno specifico software molto sofisticato e modernissimo, per cui adesso la traduzione viene fatta attraverso questo software, che non è un software di traduzione automatica, ben inteso, è un software in cui tutti quanti i traduttori e i correttori convergono per tirare fuori la migliore traduzione possibile. Ecco, vorrei però affrontare anche un altro argomento che è in the news, perché riguarda il popolo ebraico, riguarda manifestazioni di antisemitismo che abbiamo visto in Italia. Come reagisce a questa situazione? Bisogna tenere presente che ciò che ha allarmato la comunità ebraica è qualcosa che dovrebbe allarmare la comunità in generale, perché questo è un problema che non riguarda soltanto gli ebrei, riguarda un sentimento di intolleranza diffusa che banalizza il male e che usa argomenti terribili come la sofferenza della Shoah per insultare l'avversario, quale che esso sia, e augurargli una fine terribile. Sono fenomeni angoscianti che devono preoccupare tutti, perché si possono utilizzare i temi degli ebrei, della storia degli ebrei, ma si può utilizzare qualsiasi altro tema di diversità, e questo è un sintomo di malessere sociale e di abbattimento di barriere inibitorie. Quindi il problema che ha preoccupato ovviamente la comunità ebraica è un problema che dovrebbe preoccupare tutti quanti, perché bisogna chiedersi perché si arriva a questi livelli di bassa civiltà. Perché anche in fasce culturali più elevate c'è un luogo comune così di un antisemitismo magari bonario ma latente? Se c'è, non so se poi pensa che ci sia o meno. C'è e c'è sempre stato, e si manifesta in tante forme differenti. qualche volta è, diciamo, a un livello assolutamente bonario, una battuta, qualche altra volta presuppone e prevede anche cose molto più serie e preoccupanti. Esiste, ma entro certi termini è controllato. Non è che si dice che adesso c'è l'allarme antisemitismo in Italia e così via. È qualcosa di, diciamo, connaturale alla presenza ebraica, che esiste anche quando non ci sono gli ebrei in un determinato posto. La novità di adesso, il fatto su cui bisogna riflettere, è che emergono delle cose che prima non emergevano. Non ci si sta più attenti a controllare se stessi, e quindi la banalizzazione e l'offesa diventano un elemento centrale e per questo molto preoccupante. Lei esce da un'esperienza americana, è stata a Washington, può raccontare qual è stata l'atmosfera che ha trovato qui negli Stati Uniti? E in chiusura, magari sulla base di quello, che messaggio può dare a questi ragazzini, perché alcuni sono dei ragazzini che magari non sanno neanche di che cosa stanno parlando, perché cerchino di guardare un pochino oltre? La situazione politica americana e la società americana è molto differente da quella europea e specificamente da quella italiana. Sono diversi i percorsi educativi, sono diverse le modalità di convivenza. Gli Stati Uniti di per sé sono un grande accumulo multiculturale e multietnico. In Europa la situazione è differente, ma oggi ad esempio l'Europa è oggetto di grandissimi flussi migratori, e questi flussi migratori che portano la diversità preoccupano molto. E a tutti i giovani, anche i meno giovani che fanno queste cose, proverei a dire: cercate di conoscere le persone, cercate di stabilire relazioni sociali. Chiunque si esprime in maniera impropria dovrebbe considerare l'effetto che ha negli altri di queste sue parole. Le parole sono pesanti, sono pericolose e fanno male. Uno dei principi della nostra tradizione è di non fare agli altri quello che non vorresti che sia fatto a te. Questo per noi è un insegnamento fondamentale che dovrebbe essere divulgato e vissuto collettivamente. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Avevo sempre con me ai microfoni America 24 il rabbino Riccardo Disegni, capo della comunità ebraica, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori come canzone del giorno? Beh, mi piace un titolo simbolico di una canzone di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters, cioè un ponte sopra acque turbolenti. Beh, direi azzeccato, visto il tema che abbiamo affrontato. Dunque sì, ponte, che è importante costruirli sulle acque turbolente, di Simon e Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!